Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Io salto e con un colpo di testa cerco di allungare la traiettoria della palla e mettere fuori tempo l'avversario. Lui arriva, salta e incorna verso la rete. Ma quando colpisce, la palla non c'è più. La mia fronte, però, è ancora lì. Allora, io sono Stefano, vivo a Firenze, ho 55 anni, due figli, lavoro in centro, proprio nel centro di Firenze, faccio il tecnico, sono geometra e mi occupo di edilizia antisismica per la regione toscana. Di solito lo sentite il sabato alle 2:30, giusto? Alle 14:30. No, la domenica alle 16:30. Scusami, ma no, la domenica alle 16:30, non è il sabato alle 14:30. Ma no, domenica alle 16:30 a bordo campo. Benissimo, Dario Ricci è in studio, in diretta, voi siete qui. Ciao Dario, buongiorno. Ciao, ciao Matteo, ciao a tutti. Perché Dario è qui? Perché, beh, perché eravamo lì a parlare, abbiamo detto sì, entra, semplicemente. Ma perché tuffato. Oggi parliamo di sport. Parliamo di quello sport per cui non è lo sport professionistico. Cioè c'è gente che fa altro nella vita. C'è gente che fa soprattutto altro e ogni tanto fa degli sport. Lo sport, come dire, ma neanche amatoriale. Dilettantesco e dilettantistico. Ok, la storia di Stefano è la storia di un tizio che esce per andare a correre, tra l'altro neanche per giocare a calcio, e viene chiamato, dicono perché non giochi, e finisce prima un po' male, poi invece finisce bene. E con Dario prima cercavamo di capire come e perché la gente sostanzialmente non la smette, no? Perché poi sì, è vero. Con Tiziano anche dicevamo dovremmo fare una puntata non tanto sul vostro sport amatoriale ma sul cercare di capire. Avevo 50 anni, mi sono detto basta. Sì, no, in quel momento è difficile. Poi per noi quarantenni è il momento più... Noi parli per noi. Sì, insomma, per dai. Per noi o per tutti i quarantenni ascolto? Per tutti noi quarantenni è il momento questo più critico, perché la testa ti fa sentire giovane, il fisico ti dice ragazzo, come, io resto qua. 349-238-6666. Se avete uno sport che ancora fate, che ancora avete il coraggio di fare, un po' come il sottoscritto che tutti i giovedì sera cerca di mettere insieme 10 persone per giocare a calcetto, perché poi c'è sempre uno che organizza. È un'impresa eroica, c'è sempre uno che organizza. Però Dario mi diceva poco fa che esiste un social network. Sì, esiste un social network, Fubless, che è stato inventato, creato da dei ragazzi intraprendenti per risolvere proprio il problema del decimo a calcetto. Cioè si va su questo social network e si scrive in rete: ci manca uno, noi siamo qui, stiamo giocando a Via Sarpi, chi è che è più vicino, chi è che dà la disponibilità. Sempre in rete si dà questa disponibilità e si arriva al campo. Al tempo stesso si può dare la propria disponibilità campo, a entrare in una partita, no? Ovunque si giochi. Nella puntata di oggi però vale tutto, Dario, vale il calcetto, come scrive Thomas. Calcetto, sono fermo da 20 giorni per lussazione alla spalla. Emanuele, corsa, maratona e triathlon. Ghiro, da quando ho scoperto, non a caso si chiama Ghiro, da quando ho scoperto il minigolf non faccio altro. Ivan, calcetto. Costantino, diciamo anche lui è uno dei nostri. Ex calciatore amatoriale per più di 27 anni. Fermo da ormai 4, preparo i ragazzi della Contrada del Drago a Mola di Bari. Si fa male un calciatore, lo sostituisco per avere un numero pari. 2 minuti di gioco, lesione di terzo grado al malleolo. Il malleolo è questa roba qua. Si fa male, aia. Sta giunto, no? 20 poi, giorni con il gesso. Il decimo è quello che rischia di più perché arriva all'ultimo, non si scalda. È freddo, mezzo vestito, mezzo si allaccia male le scarpe, è quello che rischia di più. Attenzione, entrate come noni, ma mai come decimi. Antonio, calcio a 7, sono un cagnaccio. E poi Gianluca, ho abbandonato il calcio per infortunio al ginocchio. Da anni pratico costantemente nuoto e corsa. Vanno bene insieme nuoto e corsa? Non c'è una roba, una no, roba aerobica no, l'altra? No, fanno bene perché la corsa ha anche delle controindicazioni per la schiena, no? L'impatto col terreno, eccetera, eccetera. Il nuoto... Non hai... Tu lo sai sicuramente, Dario. Mi dici per una volta qual è la differenza tra una roba aerobica e una roba anaerobica? Oddio, mandiamo la pubblicità già. Benissimo. Ora. 349-238-6666. C'è qualcuno che lo sa sicuramente. Noi stiamo facendo la parte di quelli che non lo sanno. Chiaro, giusto? No, anche per stimolare il dibattito. Bravissimo. Bria scrive MTB, mountain bike tutta la vita, faticoso ma gratificante. Dopo anni di sport amatoriale, corsa, calcio, calcetto e bicicletta, Vittorio. Tutte insieme. Ho iniziato a praticare il rugby a 42 anni. Sono 5 anni che ho scoperto il paradiso. 349-238-6666. Dario Ricci fa la mezza maratona in... Beh, in 1:48, è 1:48. Questo è che è buono. Beh, è dignitoso, più che decente, direi. Cioè, quello, il campione di mezza maratona? Ci mette la metà del tempo. Cioè, okay. Lui, quando io parto, lui ha già... La cosa bella di Dario Ricci, non capisci mai se ti sta pigliando, ma proprio tanto. No, non ti sto prendendo. No, ma guarda, infatti non agli ascoltatori, però con me. No, il campione. Sempre, non è vero, sempre, ogni volta che ci vediamo, arriva e dice... un po' in soggezione. Ho sentito la puntata, bella anche oggi, no, non bella, lo capisci mai. A bordo campo tutte le domeniche alle 16:30. Bravo, io sono lì. Lui è lì, noi siamo qui e questa è la storia di Stefano. Ho iniziato a correre da un anno. È venerdì sera. Decido che ho abbastanza tempo prima della cena fissata con gli zii di mia moglie. Maglietta bianca di cotone, pantaloncini corti attillati, scarpe da podismo e Garmin al polso. Via. Solito percorso. Lungo l'Arno fino al girone in ritorno, 10 km in tutto. Dopo pochi minuti all'altezza dei campini all'Albereta, un ragazzo mi si para davanti facendo segno di fermarmi. Ragazzo, penso. Un podista con tempo cronometrato non si ferma tanto facilmente. Lui continua a sbracciarsi, quindi nonostante il Garmin che scandisce i secondi mi fermo. Scusa, siamo solo in 9, giocheresti con noi a calcetto? Dai, abbiamo il campo per un'ora. Rimango un po' indeciso, poi la voglia di rigiocare a calcetto dopo anni ha sopravvento su tutto e dico, ma sì, dai, avete trovato il decimo. Appoggio il telefono cellulare e le chiavi di casa a terra, mi mescolo ai giocatori. Tutti hanno una ventina d'anni meno di me. 5 di loro hanno la maglietta nera, quindi le squadre diventano magliette nere contro tutti gli altri. La corsa mi è piaciuta, ho cominciato recentemente, da 3-4 anni, ho fatto la mezza maratona a Firenze, il tentativo era fare la maratona, insomma, quindi mi alleno lì vicino a casa, lungo l'Arno, che c'è tutto lo spazio lungo la pista ciclabile, che è molto bello, senza traffico, quindi un'attività molto che mi appaga molto, però adesso sono fermo e spero di ricominciare, perché sto facendo un po' di terapia per delle infiammazioni al ginocchio. Via via metto d'accordo le suole sporgenti delle scarpe da podismo con l'idea di controllare un pallone e riesco a dare un paio di passaggi che il fuoriclasse trasforma in altrettante reti. Insomma, c'è partita. Poi arriva l'ultimo minuto. Azione loro sulla destra, parte un cross alto, io salto e con un colpo di testa all'indietro cerco di allungare la traiettoria della palla e mettere fuori tempo l'avversario. Lui arriva a grande velocità, salta e incorna verso la rete. Ma quando colpisce, la palla non c'è più, perché l'ho toccata io. La mia fronte però è ancora lì, dove un attimo prima c'era il pallone. Una testata terribile. L'arcata sopraccigliare destra dell'avversario contro la parte alta della mia fronte. Cado in avanti e mi ritrovo steso con la faccia a terra. Mi tiro su, porto la mano sopra la fronte e sento una voragine. Apro gli occhi e vedo una pozza di sangue. Dall'altra parte Giacomo, un ragazzo alto sulla venticinquina, è piegato dal dolore e si tiene premuto il sopracciglio con un fascio di carta da rotoli. Qualcuno passa anche a me della carta. Poi andiamo in bagno a lavarci le ferite e aspettiamo l'ambulanza. Finalmente raccolgo il cellulare ancora posato a terra insieme alle chiavi. Mia moglie mi ha cercato più volte. La richiamo. Senti, per la cena ho dei problemi, le dico. Vieni qui che ti spiego tutto. Arriva, guarda la ferita, si preoccupa e vuole accompagnarmi in ospedale. La convinco comunque ad andare alla cena e che le darò notizie appena fatta la visita. Nel frattempo arriva l'ambulanza. Al pronto soccorso veniamo spinti dentro da protagonisti. Aspettiamo dignitosi il nostro turno. Poi una giovane dottoressa con maniere sbrigative ma efficaci ci fa domande e compila una scheda. Ritorna dopo qualche minuto e inizia con me. Alla fine sono 5 punti. Poi tocca al mio avversario. Sono 5 punti anche per lui. Pareggio. Ci diamo un 5 con sportività. Ora, ben incerottati, aspettiamo ordini dalla dottoressa. Arriva e ci presenta dei moduli da firmare. Ce ne consegna una copia e ci saluta. Potete andare. Se però nelle prossime ore avete nausea, tornate subito qui. Myself. ce ne andiamo e attraversiamo la sala d'aspetto dei parenti. Dagli sguardi delle persone realizzo che siamo vestiti da calcetto e da podismo e che la mia maglietta bianca sembra un camice da macellaio. Usciamo. Siamo felici. Sono passate appena 2 ore dalla testata e ci sentiamo bene. Non chiamo mia moglie che sarà ancora a cena all'altro capo della città. È Giacomo che telefona a sua madre per farci venire a prendere. Ma lei non può prima delle 10. Allora telefono a suo zio. È fuori Firenze. Un po' s'arrabbia, ma tant'è, o aspettiamo le 10 o ci arrangiamo. Mentre siamo alla fermata dell'autobus, propongo di andare a piedi a casa mia, che in quel momento mi sembra vicinissima. Scopriremo poi che sono quasi 6 chilometri, non proprio una passeggiata. Lui accetta subito e ci incamminiamo. Durante il tragitto cala il buio. Le vie sono semideserte, ma i pochi che incrociamo ci guardano strano. Forse pensano a una rissa con dei bastoni e dei coltelli o chissà. Dopo più di un'ora arriviamo. Buttiamo i moduli dell'ospedale sul mobiletto d'ingresso e andiamo in bagno per darci una lavata. Io ho un numero nella rubrica del telefono con scritto proprio così: Giacomo Capocciata. Capocciata non è il cognome, ma è per ricordarmi io. In realtà non ci siamo mai risentiti. E questi ragazzi erano tutti ragazzi molto più giovani di me, incontrati casualmente, quindi non erano vecchi amici, persone con cui mi frequento. Lo specchio del bagno rimanda facce un po' affaticate, con un vistoso cerotto. Ti accompagno a casa o ci facciamo una birra, propongo. Una birra, volentieri. Apro 2 lattine di birra e ci sediamo al tavolo di cucina. Tu che fai? Gli chiedo. Suono l'organo, mi risponde. Ma lo fai di mestiere? Sì, più o meno. Domenica ho un concerto in Norvegia, dice. Ora non so come fare a presentarmi con questo cerotto. Senti, che ne dici di uno spaghettino, propongo. Se me lo chiedi, a quest'ora mi sembra un'ottima idea. E via, attacco i fornelli. Metto una pentola d'acqua sul fuoco e soffrigo uno scalogno in una grande padella. Prendo 2 pomodori grossi dalla pianta in giardino, li taglio e li schiaffo in padella anche loro. Aggiungo sale e peperoncino, quanto basta. Tagliuzzo una mozzarella da 250 grammi e preparo qualche foglia di basilico. Nel frattempo l'acqua bolle. Io ho fame, dico. Penso che ce ne vorrà almeno un paio di etti a testa. Per me va bene. E allora dai, facciamo tutto il pacco. Butto 1/2 chilo di spaghetti. Poco prima della cottura li salto nella padella per un paio di minuti. Li divido in grandi scodelle e vengono fuori 2 belle piramidi. Metto sopra una manciata di mozzarella, il basilico e via per la gioia delle nostre forchette. Apriamo un'altra birra ciascuno e portiamo a termine il lavoro con passione. Accompagno Giacomo a casa e al rientro, seduto sul divano, sento tutta la stanchezza del mondo. Poi arriva anche la mia famiglia, racconto tutto, prendo un antidolorifico e andiamo a letto. Al mattino, con la caffettiera sul fuoco, mia moglie mi chiede: ma cosa sono questi fogli? Ah, me li hanno dati in ospedale, dico. Lei legge ad alta voce. Istruzioni per pazienti che hanno subito un trauma cranico. Consigli per i prossimi 2-3 giorni. Non prendere farmaci per il mal di testa se non prescritti dal medico. Mangiare cibi leggeri e in ridotta quantità. Evitare le bevande alcoliche. Su un valico di montagna, credo, Stefano, nella foto che ci ha mandato. Purtroppo però, per come è tagliata la foto nel sito, si vede solo l'altitudine ma non il luogo, quindi glielo chiederemo. 1296 metri sul livello del mare. So però che Forlì a 68 km e Santa Sofia a 27, da un cartello che c'è lì di fianco. Stefano invece ha una bella maglietta rossa, dei pantaloncini aderenti e direi che qui non sta correndo ma sta andando in bicicletta. Pronto, Stefano? Sì, ciao Matteo. Ciao, pronto. Come stai? Tutto bene, grazie. Dove ti trovi in questa foto? In quella foto sono al Passo della Calla, che è un passo tra il Casentino e la Romagna. Ok, quindi per questo sei un po' vicino a Forlì, un po' vicino a Santa Sofia, che non so dov'è, ma sì. Immagino sia da quelle parti. E adesso invece dove sei, Stefano? Adesso sono a Firenze. Sono a Firenze, aspetto di entrare in palestra. Ma a che ora finisci di lavorare, Stefano? No, abbiamo il pomeriggio abbiamo un orario flessibile, diciamo, a volte sto fino alle 18 e quando vado in palestra esco prima e recupero le ore gli altri giorni, se è possibile farlo. Ma com'è che si diventa sismografo? No, il tuo ruolo di geometra è esattamente esperto sismico? No, guarda, quello è, lavoro al genio civile. Il genio civile si occupa dell'edilizia antisismica, semplicemente okay. I progetti vengono da noi e siamo delegati a controllare che le che sia tutto a norma secondo legge. Sì. Ok, perfetto. Tra l'altro arriva un messaggio che mi dice: Emanuele, sono 5 mesi che aspetto un'autorizzazione sismica nel comune di Roma per un ampliamento della casa, nel frattempo sono diventato un maratoneta, faccio 10 chilometri al giorno, quindi diciamo c'è qualcosa che accomuna in questo caso te e lui. Senti Stefano, no, Firenze siamo molto più veloci, quindi okay. Devo passare una lancia per il nostro ufficio. Stefano, quanto ti sei pentito di aver giocato quell'ora a calcetto come decimo per caso, tra l'altro? Ma guarda, la domanda, no, in realtà è difficile, mi sono pentito moltissimo, in quel momento pensavo di essermi fatto davvero male, sono stati attimi terribili, e quel che è successo dopo penso sia dovuto proprio anche all'euforia, no, di vedere che poi alla fine era un taglio ricuscito, stavamo bene, era tutto a posto, quindi andiamo a piedi, ecco, tutto il resto è stato... E poi da lì, diciamo, non tutte le capocciate vengono per nuocere, hai conosciuto Giacomo, che poi mi sembra di capire non l'hai più sentito però, giusto? Non ho più sentito, le ho fatto un messaggio proprio in occasione del fatto che, anzi ti ringrazio perché mi ha fatto piacere sentire il racconto, insomma, che è stato letto. Figura, e quindi gliel'ho detto, non so se ci sta ascoltando, ma lo chiamerò, insomma, che lui era... Ah certo, gli hai detto che era protagonista di una storia oggi. Certo, sì. Giacomo, tra l'altro, organista, giusto? Suona l'organo, ti ha detto. Sì, suona l'organo in una delle più belle chiese di Firenze, perché a San Miniato al Monte, una chiesa bellissima, un romanico, la prima chiesa romanica. Senti, a un certo punto c'è un termine che se uno non capiva che eri di Firenze era chiarissimo, quando dici arrivo vicino ai campini, cioè che qualsiasi altra parte d'Italia sono i campetti probabilmente, invece a Firenze è un po' come la camerina e non la cameretta. Io ho un'amica di Firenze che dico, quando torno dai miei si dorme in camerina. Che sta sì, per ci sono dire... diverse cose. Noi giochiamo a calcino mentre tutta Italia gioca a calcetto balilla, queste cose qui, insomma, sì. Senti, vai ancora a correre? No, in questo momento no, però vorrei andare, sì, adesso c'ho questa infiammazione a un tendine che non conoscevo, che è la zampa d'oca, poi ho scoperto che siamo io e Gomez ad averlo. Però lui è entrato, io ancora. Sì, ci ha messo un po', però pure lui. Scusami, la zampa d'oca dove si trova esattamente? È praticamente sul lato interno del ginocchio, appena sotto, insomma. Ah, ok. Non ti è mai venuta l'idea di smettere? Di smettere? Ma guarda, che non vorrei che ci fosse un fraintendimento. Io non faccio sport, come dire, così, con Garoso, cioè, siamo un po' dei cialtrone, andiamo in bicicletta, giro facendo più i turisti. Ok. Il nostro cicloturismo è più turismo, e lo stesso la corsa, insomma, per me andare poi a fare un giro. A mezza maratona, per esempio, sentivo parlavate di tempi, l'ho fatta in 2:02, insomma, con un quarto d'ora in più. Ok, e allora ti lascio con un messaggio di Cristina, che è il 349-238-6666, scrive: sono Cristina, ho 59 anni, ho iniziato a correre a 44 e ora la corsa è la mia più grande passione. Oggi corro la mezza maratona in 1:45. Io ti ringrazio Stefano per la storia, per la chiacchierata, in bocca al lupo. Grazie a te, mille grazie. Ciao, a presto, ciao. Dopo 25 anni di calcio, dopo 8 operazioni alle ginocchia, ho smesso e intrapreso kickboxing. A 40 anni sono numero uno in Veneto. Ciao, Fabiano, 349-238-6666, ma anche su Twitter, voi siete qui R24. Tra 2 ore parto per l'allenamento collettivo di running. Libertà, condivisione, anche fatica, ma le sensazioni fantastiche che dà questo sport sono irrinunciabili. Paolo, 42 anni, sport tutta la vita, ginocchia a pezzi. Che fare? Mi sto brevettando per volare con il deltaplano. Volo libero, no motore. Sì, e sono aperte le porte del paradiso e le ginocchia non soffrono più. Ho 38 anni, ho deciso di iniziare a fare acrobatica aerea, l'acrobata del cerchio. Ora, adesso io non so nemmeno cosa sia l'acrobata del cerchio e suona veramente interessantissimo. Però voi la sentite quella vocina dietro alla vostra testa che vi sussurra: stai a casa, Ascolta Ciccio, stai un po' a casa oggi, accendi la televisione, leggiti un libro, accendi la radio. A 40 anni ho comprato una moto da cross, troppo bello, Ale da Milano. Facevo il portiere, uscivo con delle mosse da karate, era sempre una rissa. Lasciamo perdere, ciao. Io ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile anche la puntata di oggi. Vi ricordo che lunedì noi alle 16, cioè all'orario della diretta, siamo in diretta ma soprattutto dal vivo e quindi all'aperto. Insomma, siamo al Pirelli Store di Corso Venezia 1, se siete a Milano, se siete da quelle parti, in centro, Piazza San Babila, noi trasmettiamo da lì, raccontiamo una storia legata alla corsa e ci sarà anche, oltre alla persona che ha scritto la storia, che è un amico del programma, un ospite molto importante. Vi aspetto lunedì, per il resto ringrazio Tiziano Bonini, Paolino Corleoni, Margherita Hina, ringrazio Stefano, la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Sono Proglio Mario, vivo a Diano d'Alba nelle Langhe, la storia di domani è la mia e parla di Tumlin, un umile contadino diventato per me maestro di vita. Questa è la mia storia e io sono qui.